La donna e il segreto da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. È difficile a chi porta le gonne il custodire un gran segreto in petto, quantunque sotto un simile rispetto ci siano uomini peggio delle donne. Un marito, per mettere alla prova la sua donna, una notte a dire uscì: «Nel ventre par che tutto mi si muova, provo un dolor che non provai fin qui». «Ho fatto un ovo, oh Dio bambino! Ecco, vedilo, qui tiepido ancora, guardati ben dal dirlo! Ogni vicino mi chiamerebbe gallinetta allora». La donna, nuova al caso, con spavento per tutti i santi di tacer giurò. Ma non durò poi molto il giuramento, che appena in oriente il sol spuntò, scesa dal letto va da una comare e, «Amica», dice, «amica, un caso nuovo, ma zitta, non mi fate bastonare. Sapete? Mio marito ha fatto un ovo». «Un ovo? Signor sì, tre volte tanto i soliti, ma zitto in carità! Gesù Maria, tacete! Dal mio canto non fiato, ve lo giuro, e andate là!» Quando partì la femmina dell'ovo, l'amica, che a cantar nel ventre sente il gran segreto, al solito ritrovo cammina a sparpagliarlo fra la gente. Ma invece d'uno, nel contrar la storia, disse che l'uomo ne aveva fatti tre, e un'altra ancor più corta di memoria, in gran segreto quattro gliene diè. Il segreto era quello del magnano, tutti parlavan dell'avvenimento, e l'ovo crebbe sì di mano in mano che in un capo al din aveva fatti cento. Fine della favola, La donna e il segreto. Questa registrazione è di dominio pubblico.